A tavola le compagne accolsero Emanuela con occhiate d'intesa. Ella si sedette, spossata, salutò in giro con la mano, affondò il cucchiaio nella zuppa e prese a mangiare a testa bassa. Silvia le disse sottovoce: «Tira brutto vento per te». «Per me?» «Si capisce. Ieri a colazione fuori, oggi a colazione fuori. Ma dove sei stata tutto il giorno? Suor Prudenzina ha parlato alla superiora». «Ah, non dici nulla?» «No, che devo dire?» Più tardi, in camera di Anna, quando furono tutte riunite, udendo la suora arrivare, Silvia s'affrettò a metterle un libro davanti. «Studia!» le consigliò. «Studia!» Così la suora, aprendo, la trovò tutta intenta. E però fece ironica, prima di richiudere la porta: «Lei studia molto, Andori, lei studia troppo!» Valentina, Silvia e Anna, alzando gli occhi dai libri, guardarono Emanuela. E allora ella spiegò: «Beh, non ho fatto niente di male. Ieri e oggi sono stata a colazione in casa dei genitori di Andrea». Valentina l'interruppe: «Ti hanno dato l'anello?» «No, non ancora». «Il fatto è», disse Silvia, «che da 2 giorni è l'aria stravolta. Non se ne sarebbero accorte, magari, ma Valentina ha fatto notare il tuo posto vuoto a tavola. E dopo c'è stato un gran parlottare tra le maggiori sottane. Credo che non si rendano conto di quello che tu stai facendo. Ti dirò che l'anno passato non me ne rendevo conto neppure io. Studio. Per studiare non c'è bisogno di essere iscritte all'università». «No», rispose Silvia. «No, certo, ma ti piace studiare?» chiese, e siccome l'altra non rispondeva, forse ti piace di più non fare nulla. «O andare a spasso con Andrea», rise Valentina. «Neppure», insisté Silvia, «non far nulla, ecco. E volevo proprio convincerti di questo, che non si può nella vita non fare nulla. Allora, secondo te, chi non è dotato per le lettere dovrebbe buttarsi a fiume?» «Emanuela avrà la sua casa, i suoi bambini», disse Anna. «Non credo che questo la interessi molto», Silvia disse. «Noi oggi non ci appaghiamo più di quello. È un bene o un male, non so, ma tutto progredisce, la casa va da sé, le calze si fanno a macchina e anche i figli sembrano avere minor bisogno di noi». «Non credo», replicò sorridendo Anna. «Sì, invece. Emanuela non è altro che una consumatrice di denaro. E forse non se lo gode neppure. Perché stasera ti accanisci contro di me, Silvia? Che hai?» «Non mi accanisco. Ti dico quello che penso, da amica. A che servirebbe essere amiche se non a dirsi quello che si pensa?» «Tu credi effettivamente che l'amicizia serva a qualche cosa?» fece Anna ironicamente. «No, forse no. Per il fatto che non si scelgono mai i propri amici. Capitano. Con alcuni ci conosciamo da bambini e allora l'amicizia è un'abitudine. E quando ammiriamo qualcuno al punto che volentieri gli saremmo amici, di rado abbiamo occasione di divenirlo e allora si tira avanti con amiche e amici occasionali. Ma che stavamo dicendo? Ah, che tu dovresti fare qualche cosa. Tu conosci la soddisfazione intima, profonda, di costruirsi giorno per giorno la strada su cui camminare? Di guardare al domani come a un maturante frutto da cogliere e la gioia di sentirsi stanche la sera, stanche non d'aver vissuto un'altra giornata, ma di essersela fatta con le proprie mani quella giornata, così come un operaio squadra la pietra?» «Ah, parole queste», disse Emanuela sorridendo, «parole che ti ripeti per convincerti, ma in realtà sai che cos'è che ti spinge? È l'ambizione». «L'ambizione?» Silvia ripeté e poi restò a pensare. Guardava avanti a sé e per quei suoi occhi strabici si sentivano guardate tutte. Assentì a più bassa voce: «Può darsi, sì, forse è l'ambizione, ma non l'ambizione di essere creduta dagli altri una creatura superiore, bensì quella di sentire in sé una propria superiorità e di fare ogni sforzo per conquistarsi questa coscienza». «Sì», aggiunse, «forse tu hai ragione, Manuela. Tutto questo è l'ambizione. E tu non hai neppure quella. Vuoi umiliarmi, Silvia? Io ho una vita così complicata. Ecco, appunto. Ciò che complica l'esistenza è la noia. Chi ha la vita occupata non pensa neppure che sia complicato viverla. Pensavo che tu potresti, per esempio, fare un corso per infermiera della Croce Rossa». «Io?» esclamò Emanuela. «Ma è impossibile. Io ho orrore del sangue. I morti mi fanno paura. Dopo me li sogno per un mese intero e poi dovrei prendere un'infermiera per curare me». «Qualcos'altro allora?» Allora tutti questi discorsi sono inutili, non ho bisogno di far nulla, di trovare nulla. Io a giugno mi sposo. Già, è vero, c'è anche il matrimonio. Io me ne dimentico sempre, disse Silvia sorridendo. Poi mise un braccio intorno alle spalle di Emanuela con affetto. Tu hai ragione, sono io che sono diversa dalle altre e sempre lo dimentico. Ci sono molte cose oltre quelle che preoccupano me. Ognuna di noi ha la sua vita dinanzi a sé. Quante volte te l'ho detto? Noi siamo su un ponte. È passato il ponte. Chi prende una strada, chi l'altra. Un transito questo, insomma. Tra poco, osservò Anna, resterà deserto il ponte. No, mai deserto. Noi si scende, altre salgono. Rimase a occhi bassi, pensierosa, poi disse cambiando tono: studiamo adesso. A mezzanotte, rientrando in camera sua, Valentina deponeva i libri sul tavolo quasi con liberazione. Acquistava un'aria di sollievo, come una donna che si sia tolta il busto. Si specchiava, si pettinava, si spogliava in fretta ed entrava nel letto. Ma ogni gesto era compiuto ghiottamente, come se l'intera giornata fosse stata sopportata sulla promessa di quell'ora. Anche la povera nudità delle cose attorno si trasfigurava, le dava un senso di benefico ritrovamento. Nel letto s'adagiava supina, s'assestava con piccole scosse, brividi, le braccia allungate lungo i fianchi, il lenzuolo che le radeva il mento e sorrideva, deliziata, al tepore del suo corpo che le coperte trattenevano attorno a lei. Poi stendeva una mano, spegneva il lume e attendeva. A occhi chiusi, tutti i sensi raccolti, attendeva. Lenta, la finestra si schiudeva. L'aria che penetrava nella camera era dolcissima e lievemente profumata di magnolia. Fuori tutto era chiaro e lucido di luna. Enormi stelle lucevano sul cielo d'un cupo azzurro. Sopra la ghiaia del fantastico giardino, pavoni passeggiavano, cigni candidi scivolavano nella fontana di vetro. E oltre il muro di cinta si vedevano cupole di templi orientali e minareti. Valentina s'assestava meglio e tendeva avida il volto come per dire: ecco, ora comincia. La porta s'apriva ed egli entrava tacito sulle scarpe di velluto. Il morbido tappeto spegneva il suo passo, ma frusciava la seta dei larghi calzoni. Le sue mani erano cariche di anelli, i capelli bruni e lucenti s'ondulavano sulle tempie. Dormi? Le chiedeva, piccolo fiore. Sì, mio signore, dormivo. Era una soave e tiepida sera. Calava dalla finestra una striscia di luna. Il corpo della fanciulla era appena velato d'azzurro. Sotto il velo diafano la carne palpitava. Ogni poro aveva un suo respiro. La fanciulla chiudeva gli occhi, scusandosi di essere così viva e bella. La camera ormai era tutta occupata dalla vita del suo corpo. Sugli esili polsi, dove traspariva il delicato rametto delle vene, gravavano pesanti monili d'argento. Sono venuto alla perla dell'Arem. Cantano di là le donne? Sì, non odi? Cantano. Nel perfetto silenzio lunare s'udivano armonie di chitarra o di arpa. Anche una voce giunse, distante, fievolissima. La fontana del giardino s'era taciuta per ascoltare. Cantano, egli ripeté, ma io ero stanco di loro. Tutte le ho guardate negli occhi e in nessuno ho trovato le pallide viole. Dal giardino il forte profumo dei fiori si inoltrava nella camera, metteva un cerchio doloroso intorno alla fronte. Egli sedette sul letto e la fanciulla in un sussulto si ritrasse. Il principe le chiese teneramente, fissandola negli occhi azzurri: perché ti ribelli, piccolo fiore? Aveva la sua voce suavissimi accenti, le sue mani erano lisce e morbide come il petalo della magnolia. A poco nelle braccia di lui dolce fu il non ribellarsi, dolce come cedere al sonno. Una donna numero uno, dicevano gli amici di Dino parlando di Xenia. Non la chiamavano neppure per nome come facevano con le altre. Lei era la Costantini. Dino ascoltava, annuendo appena, fumava, scrollava la cenere dalla sigaretta e tutt'al più diceva con condiscendenza: Sì, per una donna è una ragazza intelligente. L'amica gli costava caro, ma aumentava il suo prestigio come la grossa automobile. Spesso di sera, invece di andare per i bar, la compagnia si riuniva nel piccolo appartamento di Xenia. Per Dino era piacevole sedere fumando davanti a un bicchiere di cognac. Poi, udendo gli altri entrare, alzarsi un po' a fatica per riceverli, come se l'interrompimento delle proprie abitudini prodotto dalla visita fosse una degnazione e un sacrificio per lui. Una scoperta del Ricci, la Costantini. Se amici forestieri erano di passaggio per Milano, altri della combinazione automobilistica si offriva loro di andare dalla Costantini di sera. Tre camere arredate con gusto sobrio, tre camere diverse da come le avrebbero fatte le altre donne che loro conoscevano. Pochi mobili, luci intime, calde, due o tre bei quadri e molti libri, alcuni in lingua straniera. Neppure un libro giallo o una rivista con fotografie pornografiche. Entrando, i vecchi dicevano ai nuovi amici: Carina, molto carina, eh? Mostrando attorno la casa con la mano. E intanto gli toccavano il gomito, come per dire: Ti piace la donna? Xenia si era fatta più bella, assai più bella. Il suo corpo acquistava sveltezza nei nuovi vestiti eleganti. Negli occhi quel lampo cupido si era acquetato o si nascondeva più in fondo. Il suo gusto si era raffinato. Arredare la casa era stata per lei occupazione prediletta. Spesso raccontava di una villa che i suoi genitori abitavano nel Lazio, tutti mobili antichi di famiglia e un parco con grande sventolio argenteo di pioppi sullo stagno. A forza di ripeterlo, credeva di avere veramente vissuto in quella casa immaginaria. Ne vedeva chiaramente, come lo descriveva, l'atrio con le finestre che si aprivano sulla collina e la stanza di soggiorno con le poltrone accanto al caminetto. In casa sua donne non ne venivano. Vandina capì che sarebbe stata di troppo e seppe mantenere le distanze. Andava a farle visita nel pomeriggio. La trovava distesa sul divano con i libri vicino e le sigarette. Secondo lei, da quando andavano bene le cose, Xenia posava un po' troppo. Altre amiche non aveva, salvo la Mary del Barchi. E con questa non riusciva ad entrare in intimità. Si vedevano ogni sera. I loro amici avevano interessi comuni. La Mary cercava di rendersi simpatica e lo era. Xenia riconosceva che lo era. Eppure, nonostante ogni buona intenzione, i suoi sentimenti verso di lei non riuscivano a sorpassare quelli di una semplice conoscenza. Se non l'avesse più vista, forse se ne sarebbe accorta dopo un mese. La sera gli uomini giocavano. Era stato necessario comprare i gettoni per il poker e le carte. Attorno al tavolino si formava una nube grigia di fumo. Spesso gli uomini si inasprivano. Soltanto Horsch manteneva la sua calma. Dino chiedeva a Xenia: Dacci da bere. E lei serviva i liquori con molto garbo, il whisky. Il giorno dopo diceva a Dino: I liquori costano, ho bisogno di altro denaro. E lui le rispondeva: Che vuoi fare? È necessario. Quando si ha una casa gli affari si ingranano meglio. Gli amici non sfuggono. Del resto, tra poco avremo gli incassi di quel grande affare degli autotreni. Xenia non sentiva in sé molta riconoscenza per Dino, per il denaro che spendeva. Alla fine dell'estate, lei gli aveva detto: E allora, questo posto alla società delle cementazioni? Ma egli aveva risposto: Che, vuoi rimetterti a lavorare adesso? Ci penseremo. E lei aspettava. La colpa, pensava scagionandosi, non era sua. Perciò accettava facilmente il denaro, quasi dovuto le sembrava, come un indennizzo per quello che avrebbe potuto guadagnare e al quale rinunciava per causa di lui, di Dino. Nella giornata oziava, si trascinava da un divano all'altro con le sigarette, un certo suo cuscino preferito e i libri. I libri avevano ripreso una parte importante nella sua esistenza. E apprezzava i gravosi studi che le avevano appreso questo godimento. Ma tutto il resto della sua vita di collegio le appariva ingenuo, ore sprecate dietro inutili illusioni. Chissà che fine avrà fatto Vinca con quel suo spagnolo senza un soldo che la portava a fare lunghe passeggiate in tram e poi al cinema da 2 lire. Adesso, ripensando al furto dello smeraldo, rideva. Potevo tenermelo. Era una bellissima pietra, di molto valore. Rivedeva l'albergo nel quale aveva passato la notte, il viaggio verso Milano in terza classe col fagotto e il negozio del guantaio. Come lontano tutto questo. Anche se soltanto pochi mesi erano trascorsi, le sembrava di aver vissuto tutto ciò non per necessità, ma per amore di avventura. Le sarebbe piaciuto che il collegio fosse stato lì, a Milano, per alzare il ricevitore e chiedere alle amiche: «Volete venire a trovarmi? Sto in via tale e numero tale». E vederle entrare con quei loro vestiti dimessi, offrire loro il whisky, marron glacé. Ma non si poteva. Che figura avrebbe fatto con Dino, con la cameriera? Se le avesse incontrate per la strada, forse avrebbe fatto finta di non vederle. Durante il giorno Dino la lasciava quasi sempre sola. Egli era in giro per i suoi affari, cercava persone, affannato in quel suo ampio cappotto sportivo. Andava da lei dopo colazione a prendere il caffè, parlava degli affari, ma vagamente, senza specificare. Alcune volte Tom Barchi era con lui ed entrambi si mostravano irritati contro Horsch. Ci tiene le mani legate, dicevano, non ci lascia muovere. Un giorno, entrando, Dino disse a Xenia: «Sai, il vecchio gorilla?» «Quale?» «Ma quello dove lavoravi tu, quello della X&X&X Company?» «Sì, ebbene?» «Beh, è saltato. Tutta la società è in aria. Qualcuno finirà in galera. Qualcuno che non sarà Horsch, naturalmente.» E rideva. Raimondo Horsch appariva a Xenia un personaggio sempre maggiormente misterioso. La sua conversazione era piacevolissima. Sapeva molte cose, vedeva le esposizioni d'arte, leggeva i libri in voga. «Ma quando fate tutto questo?» Xenia stupiva. Egli sorrideva con un enigmatico sorriso. Aveva una gradevole voce lenta e grave. Bisognava per forza fare attenzione quando parlava, anche perché parlava piano. Talvolta mandava fiori a Xenia, ma non senza un pretesto. Dopo un invito a pranzo, per esempio, sempre gli stessi fiori orchidee. Lei le poneva in un vasetto, mai le appuntava sul vestito, forse le pareva di non potersi ancora permettere di distruggere in un'ora quei costosi fiori. Cercava piuttosto di conservarli il più a lungo possibile. Dal divano, dove amava stendersi, li contemplava con un'intima ammirazione. Enormi erano, magnifici mostri dai petali ansanti come lingue d'animali. E quando vedeva Horsch, gli diceva con cortesia distratta: «Grazie dei vostri fiori», come se le avesse mandato un mazzo di violaciocche. Ogni mese Xenia spediva un po' di denaro ai suoi. Ogni volta attendeva che la lettera di suo padre fosse finalmente violenta, che le dicesse: «Ma insomma, che mestiere stai facendo? Tieni i tuoi soldi e non ti fare più viva». Invece, regolarmente, a giro di posta, il padre la ringraziava sul foglietto rigatino. Non sospettavano di nulla, o, Xenia si domandava, trovavano più comodo non accorgersi di nulla. Non sapeva che al paese si mormorava, senza sapere nulla di preciso. E proprio quelli che credevano il lavoro la vera fonte dei guadagni di Xenia facevano circolare voci calunniose sul conto di lei, perché non potevano tollerare l'idea che la ragazza fosse riuscita a crearsi una posizione onestamente. Se avessero saputo che faceva la mantenuta, non se ne sarebbero occupati più. Era l'intelligenza e il sacrificio di Xenia che volevano negare. I genitori forse erano i soli a pensare la verità, ma non osavano neppure confessarselo. Quando si è così vecchi e così poveri, si accettano le cose senza chiedersene la ragione. Cosa potevano fare? Partire? Andare a vederla? Era più facile continuare così. A questa loro cecità Xenia si ribellava. Giustificava pienamente la propria vita, ma non ammetteva che i genitori la giustificassero. E le doleva questo così forte che certe volte cercava di convincersi. No, no, Certamente non sanno, perché quando sentiva la necessità di umiliarsi, di riconoscere la bassezza della strada che aveva scelto, per intenerirsi aveva bisogno di ricordare il grembiule nero di sua madre, i tempi nei quali andava con lei a messa ogni mattina. Aveva bisogno di portare da sola il peso della propria condotta, come un atto di ribellione all'onestà della propria famiglia, e non come un mezzo accettato da tutte e tre per vivere con maggiore comodità. Ma papà rispondeva: «Grazie, cara figlia. Tua madre si è comperata le calze elastiche per quelle vene che l'affliggono. Dio ti benedica e non ti stancare troppo. Abbiamo piacere di vedere il buon esito del tuo lavoro». Il lavoro. Il lavoro. Neanche sanno dove sono impiegata. Penseranno che faccia anche di peggio. Ipocriti, ipocriti! E strappava la lettera. E le accadeva di giudicare la sua vita soprattutto quando pensava a Silvia, ai suoi piccoli occhi un po' strabici, alla sua veste nera di lunghi lutti. Se fosse stata nella stessa città, forse Silvia sarebbe venuta a trovarla senza essere invitata. Sarebbe entrata di filato e avrebbe chiesto: «Perché fai questo, Xenia?» E Xenia non avrebbe trovato la forza di ridere, come faceva sempre quando sentiva parlare delle persone per bene. Aveva preso a motteggiare come Vandina faceva: «Ah, queste donne oneste!» Cercando quasi di togliersi la polvere di dosso, leggermente con la mano. E poi non riusciva a considerarsi disonesta. Disonesta sarebbe stata se avesse tradito Dino. Che importava se non erano sposati? Si deve essere fedeli al proprio uomo, non a un'istituzione. Ma non avrebbe potuto rispondere così a Silvia. Se le altre compagne fossero andate da lei, sarebbe stato diverso. Vinca l'avrebbe perdonata per amore. Valentina le avrebbe chiesto cosa si provava. Emanuela avrebbe ammirato la casa, le orchidee di Raymond Horsch. Silvia, cercando i suoi occhi, le avrebbe chiesto: «Perché fai questo, Xenia?» A questa precisa domanda che nasceva in lei, Xenia s'approfondiva nel divano, guardava attorno, metteva in bocca un dolce e, tornando con gli occhi al libro, si rispondeva ad alta voce: «Perché?» «Oh, bella, perché mi piace!» Così inoperosa la sorprese Raymond Horsch. Era il tramonto e tuttavia Xenia ancora non aveva acceso la lampada. Nel primo pomeriggio era stata a passeggio ricercando sui marciapiedi l'infatico sole milanese. In lei, d'improvviso, era nato il desiderio di un pino e ricordava quello che vedeva dalla finestra del collegio aprire placidamente l'ombrello dei rami irsuti. Questo pensiero le aveva messo in petto una segreta ansia, un'insofferenza di quel pigro e grigio novembre che la immalinconiva. Dirò a Dino di condurmi in riviera di nuovo. Ed era tornata a casa tutta presa d'impazienza. «Oh, scusate, scusate, è buio», gli disse, vedendolo entrare, e pensò che aveva le pantofole ai piedi e il viso lucido. L'altro attese che Xenia l'invitasse a sedere, poi disse: «Perché volete accendere la luce? Non è preferibile questa penombra?» «Io sì, preferisco. Dino non è ancora venuto, ma non può tardare. Non l'ho visto da ieri. Non mi aveva detto di prepararmi per uscire stasera. Usciamo a cena, vero?» chiese divertita. «Non so». Tra loro cadde il silenzio. Era difficile condurre innanzi il discorso con lui che taceva e così al buio. Non si può abbordare un soggetto d'improvviso. Bisogna esservi condotti. Xenia osservò, guardando la finestra: «Che cielo livido!» L'altro volse la testa alla vetrata e annuì. «Pensavo», la donna continuò, «di andare qualche giorno in riviera per non essere presa dalla noia dell'autunno, non è vero?» «Giustissimo. Ne parlerò a Dino». La riviera non era un soggetto preferito da Horsch, poiché tacque di nuovo ed incrociò le mani sulle gambe, guardandola. Se almeno le avesse lasciato accendere la lampada, tutto sarebbe stato più facile. «Dove andremo stasera?» Xenia riprese. «Vediamo di trovare qualcosa di nuovo, di geniale. Forse Dino avrà qualche idea. Dino ha sempre nuove idee, non è vero? Se vi ha dato appuntamento, non può tardare». Dopo un momento, quasi seguendo in ritardo le parole di lei, Horsch disse: «Dino non mi ha dato appuntamento». «Ah no?» rispose Xenia. E non sapeva che pensare. Il tono di voce dell'uomo era misterioso. «Sarà felice di vedervi allora». Ma l'altro, come se non l'avesse udita, continuò: «Dino non può venire. È stato arrestato». Quando Horsch se ne andò, molto più tardi, Xenia richiuse la porta e rimase inebetita ad ascoltare i passi di lui per le scale. Passi pesanti, decisi, che si allontanavano, si smorzavano, si perdevano nell'androne. Tacquero infine e si udì il tonfo sordo del portone che si chiudeva. La casa ne fu scossa, tremò, poi ripiombò nel sonno. Dino! Ella chiamò piano. Dino! Nel silenzio la sua voce assumeva un che di macabro. Lo chiamava come un morto, per trafiggersi, sapendo che lui non poteva più rispondere. Sono andati a casa sua stamattina presto, Horsch aveva detto. Lei certo a quell'ora dormiva. Uno di loro poteva andarsene in prigione e l'altro a dormire. Due esseri rimangono sempre due cose distinte. Dov'è Dino? Come sono le carceri? Non riusciva a immaginarle e allora appoggiava la sua immaginazione al ricordo di carceri viste in pellicole, una cosa spaventosa. Non le sembrava possibile che egli fosse rinchiuso in una di quelle gabbiette buie. È buio quest'ora in carcere, buio pesto. Se lei andasse a cercarlo, Dino non potrebbe uscire. Se lo chiamasse, non la udrebbe. Dapprima non si era spaventata. Arrestato? Forse sì, ma tra un'ora spiega tutto ed è qui. Andiamo a cercarlo, a dire. Horsch scuoteva la testa. Inutile andare, inutile cercare, diceva. Un imbroglio grosso. Ho paura che non sarà tanto facile cavarsela. E allora Xenia aveva sentito il peso della propria vita caderle sulle spalle. Prima ancora di domandare la ragione dell'arresto, prima di temere per Dino, particolari immateriali le si affollarono nella mente. Il prossimo mese scade il trimestre d'affitto, la cambiale dei mobili, mangiare. Soltanto 600 lire in tasca. Com'era possibile che arrestassero Dino se lei rimaneva così? Preoccupata da questo, s'era messa a piangere. Ammanettato? Aveva chiesto fra le lacrime. No, che ammanettato. Da 3 o 4 giorni, infatti, Dino era nervoso. Gli autotreni? Xenia gli aveva chiesto. Già, gli autotreni, aveva risposto. Niente più di questo. E però mai più aveva nominato Horsch senza dire quel porco. Horsch sedeva di fronte a Xenia, nella poltrona, libero, tranquillo. Appena un po' angustiato, forse per salvare l'apparenza. Era sua la colpa, lui la cagione di tutto. Gli chiese rabbiosa: Ma voi? L'altro, calmo, interruppe: Io non ne so nulla. E Xenia non aveva osato replicare. Avrebbe dovuto dire che sì, lui sapeva che sua era la colpa, come per gli altri là, della X and X and X Company. Ma qualcosa dentro le impediva la ribellione, soprattutto qualcosa le diceva che soltanto Horsch avrebbe potuto liberarla dalla situazione. E si taceva, remissiva e mite. Avrebbe dovuto scacciarlo di casa almeno, e invece l'aveva pregato: Non mi lasciate sola. Ora camminava su e giù, si guardava allo specchio, per avere coscienza della sua faccia devastata dalla gravità di quell'ora. Batteva i pugni l'uno contro l'altro fino a farsi dolere le giunture, mormorava: bisogna trovare una soluzione. Capiva che la faccenda di Dino era seria. Voglio andare a trovarlo, aveva detto a Horsch. Non si può ancora, tra giorni forse, dopo l'interrogatorio. Ne parlerò all'avvocato. C'è già un avvocato? Sì, ho provveduto oggi stesso. Dino. Il passo della donna diveniva via via più inquieto. A tratti lei si fermava in ascolto come se dovesse giungerle di lontano la voce di lui. Ma la notte taceva e allora Xenia riprendeva a camminare sempre più nervosamente, i pugni sempre più stretti. Camminava così quella notte al collegio quando alla fine decise di fuggire. Scappo, sì, scappo, scappo. E questa decisione allora le aveva dato la calma immediata. Quietamente s'era coricata, aveva letto alcune pagine di un libro prima di dormire. Vado via anche da qui, ma immediatamente, stanotte, un'altra città, Genova. Ma che faccio a Genova? Troverò da lavorare, ho il ben servito della X and X and X Company. È saltata, Dino aveva detto, fallita, qualcuno va in galera. Genova è una città d'affari, scappo, arrivo in un albergo. Rammentò la desolata vacuità dei suoi primi giorni a Milano, da un ufficio all'altro. In alcuni non le davano neppure il tempo di spiegarsi. Il personale al completo. Scendeva le scale più lenta di quando era salita. Il rumore della strada soffocava i suoi passi inutili, la stordiva. Che faccio? Che faccio? Le notti erano interminabili, di notte non si può andare a bussare agli uffici e finalmente un giorno ecco Vandina. Doveva tutto a Vandina. Un caso, altrimenti dove sarebbe adesso? Forse bisognava parlare con Vandina, ma ormai la ragazza non avrebbe più saputo aiutarla. Era venuta giorni prima a chiederle in prestito 50 lire. Ormai Vandina poteva soltanto domandarle aiuto, non dargliene. Oh, perché era andato via Horsch? Avrebbe avuto bisogno di parlare, chiedere. Di giorno tutto sarebbe stato più lieve, ma la notte non concede distrazioni. E poi è lunga, inesorabile la notte. Non aveva cenato, aveva detto alla donna di servizio: va a letto, va a letto. Doveva decidere. Forse poteva andare a trovare quel tale pezzo grosso della banca. S'erano incontrati un giorno in una pasticceria e lui, riconosciutala, l'aveva salutata rispettosamente. Lei aveva arrossito, quasi vergognosa di non essere più povera come allora. Ora aveva le referenze della X&X&X Company. Horsch avrebbe potuto aggiungervi le sue. Chi non conosceva Horsch a Milano? Sì, ma come liberarsi della casa? 2 anni di contratto e quelle cambiali per i mobili, ogni cosa era a suo nome. In una banca guadagnerebbe 500 lire al massimo. Il mattino presto, d'inverno, al tavolo dell'ufficio. L'anno passato, svegliandosi, trovava i ghiaccioli sui vetri della finestra. È penosa la vita delle impiegate. Entrano, firmano sotto l'orologio, campana d'entrata, campana d'uscita, escono in branco, felici di non portare più il grembiule nero, senza accorgersi che, anche quando sono per la strada, dipinte, il cappellino in testa, portano con loro l'aria del grembiule nero. Meglio tornare a Roma, vendere la Volpe, alcuni mobili, realizzare un po' di denaro, tornare al collegio. Mi perdoni, suor Lorenza. Mi faccia perdonare dalla madre. Credevo che... E poi di sorpresa entrare nelle camere delle compagne mentre studiano la sera col lume a petrolio e chiedere loro: fatemi ancora posto accanto a voi. Che momento sarebbe stato? Che commozione! Questa era l'unica via di uscita. Rimettersi al punto di partenza. Di sera, nei corridoi del collegio, stagna un grande silenzio. Oltre le porte delle camere s'odono conversare le ragazze, discutere, e sempre parlano dell'avvenire. E Xenia di colpo s'accorse che tutto ciò era inattuabile, le mancava ciò che solo rende possibile l'attesa, la fede. Porcheria il mondo, bassezza. Si illude Silvia, se vuole arrivare ad avere una cattedra dovrà farsi raccomandare al preside. Chissà che vecchio schifoso. E anche Valentina si illude. Marito non lo troverà perché non ha soldi, anche se è rimasta onesta. L'onestà ti dà quanto basta per morire di fame. Come tornare in mezzo a loro, conoscendo tutto questo? Né con loro, né al paese. Non poteva più credere in tante cose da quando sapeva che si possono distruggere. Il peccato non la spaventava più. Non è vero che l'anima pesa dopo il peccato. Pesa nell'incertezza di compierlo. Ma quando è compiuto non è più peccato, diviene consuetudine di vita. Certi principi esistono solo fino a quando si comprende che si vive lo stesso facendone a meno. Nella sua disperazione pensava che non era stato peccato essere l'amante di Dino. Col marito si compiono gli stessi gesti. C'è la differenza che così giochi la tua vita, va o spacca, e se va male resti a sbrigartela da sola. Sola. Sola, sì, sola. E intanto la gola le sussultava in singhiozzi secchi e rochi. Forse adesso, straziato da quella sua pena, qualcuno apparirebbe, qualcuno, uno qualunque, sulla spalla del quale poter appoggiare la testa e dormire. Dino in prigione, Dino, Dino con quella sua mania di grandezza, di signorilità. Che freddo deve fare in prigione, più freddo del collegio, certo. Dio mio, non aveva mai pensato a quanto può essere fredda una prigione. S'era rovinato per lei, s'era messo nella faccenda degli autotreni per darle più denaro, lasciandosi giocare da Horsch. Horsch, ripeté ad alta voce, lo vedeva come poco fa nella poltrona, calmo, battendo leggermente la punta delle dita, mano contro mano, e intanto la guardava. Ti guarda, Horsch, un giorno Dino le aveva detto. E da allora Xenia l'aveva notato. Sì, Horsch la guardava. Subitamente andò in camera sua, si specchiò. Aveva gli occhi lucidi, irritati, le labbra strette, macchie rosse di pianto sulla pelle. Batté i pugni l'uno contro l'altro, parlò alla sua immagine concitatamente per darsi coraggio. Passare questo primo momento bisogna. Domani, di giorno, tutto s'accomoda, sempre tutto s'accomoda. Si tirò la fronte con le mani, si ravviò i capelli, si lisciò il viso, sorrise e poi si disse piano, guardandosi negli occhi: Horsch deve. Horsch deve. Horsch. Horsch deve.